Io avrei retto 10 secondi con quella signorina lì, 10 secondi. Cioè questa che si presenta come se fosse un premio Nobel, come se fosse Rita Levi Montalcini. Ehi, questa che dice al presidente in carica, mi pare che stiamo a Ballarò. Ma va a morire ammazza e vattene, ma vatti a fare due passi davanti a Montecitorio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Il ciuccio. Stipendi auto blu, stavolta non tornano più. Ma Tremonti, Maroni, il buon Vendola, Montecitorio dovranno tornare. La benzina anche loro a 2 euro dovranno pagare. Questo governo non nascerà a tutti i costi, questo è chiaro. Questo è un governo che nascerà se ci saranno le condizioni. Io ce la metterò tutta. Ciuccio, no, no, Ale, in ciuccio. Tutti la danno già come possibile futuro presidente del consiglio di un governo PD-PDL. Enrico Letta, il nome più gettonato. Perché voi giornalisti, se non vi mettete a raccontare balle, come dice Grillo, non va bene. Quindi su questo quindi condivide Grillo, eh? Sui giornalisti diciamo che siete d'accordo. Una balla dei giornalisti, quindi nessun fondamento. Assolutamente. La benzina anche loro a 2 euro dovranno pagare. Stai a vedere che mo a questi gli tocca danno a lavorare. Te lo ricordi Enrico Letta da noi il 28 agosto dell'anno scorso? Cioè 28 agosto del 2012, Parenzo? Ricordo una straordinaria battuta sul chinotto. Sì, sì, però disse anche che alla fine Grillo è come Berlusconi, senti. Ho criticato Berlusconi, abbiamo fatto la guerra a Berlusconi per anni. Meglio, perché, PDL, meglio PDL di Grillo, lo ripeta, meglio perché PDL. Berlusconi interpretava un modo di far politica in cui parli dall'alto, non fai domande, Grillo uguale. Grillo uguale, l'anatema dall'alto. Vittorio dovranno tornare. Grillo ha lo stesso modo di fare politica di Berlusconi. In una precedente intervista al Corriere della Sera Letta aveva detto, insomma, alla fine è meglio votare PDL che votare Grillo, Il mitologico sindaco di Salerno Enzo De Luca, anche Letta ha le sue responsabilità come Bersani. Ma devo dire con grande chiarezza che condividono questa responsabilità tutti, Enrico Letta compreso, perché era vice segretario, ha partecipato a tutte le scelte per le liste, ha fatto le trattative con i grillini. Lei ricorda quel tavolo splendido con Letta e Bersani da una parte e i rappresentanti 5 Stelle dall'altra, quel tavolo squallido, ma aspettavo che arrivasse da un momento all'altro la coda a vaccinare sul tavolo. Sempre De Luca dice: il PD ormai è un festival di ipocrisia e correntismo, un marasma di improbabili. E dunque è stata una grande festa di ipocrisia e di correntismo a cui hanno partecipato Renzi, la sua corrente, le correnti occulte e tutto quel marasma di improbabili che ormai vive in un partito che va rifondato dalla base. Non tornano più. L'incredibile battuta di Concita De Gregorio Annunzia De Girolamo. Ci racconti cosa dice col marito la sera? Proprio la De Gregorio si abbassa a queste cose qui. Ci racconti cosa dice col marito Boccia la sera? De Gregorio, su, ma come si fa? Prego, Concita De Gregorio. Abbassiamo gli altri microfoni, no, prego. No, non è possibile. No, non è giusto. No, prego, prego, vada avanti. No, non è possibile. Adesso parla lei. No, lei ha finito. Ha detto che lei sa Berlusconi avrà che guida l'elettorato. Avrà qualcos'altro da dire, no? Ci racconti di cosa parla con suo marito la sera? Allora, lei ha detto che c'ha Berlusconi che guardi, guida l'elettorato. Questo decadimento suo sulla mia vita personale dimostra. Non è un decadimento, vorrei invece che di scrivere non su è un decadimento, vorrei per che il grande fratello. No, non è un decadimento, vorrei che ci spiegasse per favore. Mi meraviglio di lei che cosa della politica. Allora, Nando Pagnoncelli. Dimostra ora ci leggerà Nando paese. Pagnoncelli. Maurizio Fusco, quando parlo io dovresti inquadrare me, se no non ne usciamo più. Il grande Giorgio Napolitano è veramente un grande italiano. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. La canta anche Gasparri, sentite. Meno male che Giorgio c'è, come dice la canzone. Hanno tirato le frecce a Bersani. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. Anche se adesso Berlusconi, insomma, vuole piazzare i suoi uomini al governo, i suoi uomini al governo. Ti faccio sì, i tuoi uomini e quelli che vuole lui al governo, poi vedremo come che partita si giocherà tra oggi e domani. Giuliano Ferrara, se foste vicini di casa di Enrico Letta e vi fosse capitato di vedere con che dolcezza accompagna le sue creature all'asilo, votereste la fiducia? Cioè, si è emozionato, siccome sono vicini di casa a Testaccio, si è emozionato per come Enrico Letta accompagna i figli all'asilo. Anche questa storia della macchina con i seggiolini dietro, no? Bellissimo. Macchina con sì, ho capito, ma non si può cominciare a leccare il culo così, però, No, calmi, ricorda, stiamo calmi, non si può cominciare a leccare il culo in questo modo. Ma di Giuliano Ferrara? No, ma di tutti, l'iconografia, è cominciato già la geografia di Enrico Letta. Calmi, no, tranquilli, come, scusami, ognuno resti nei ranghi, ognuno non resti nei ranghi. I simboli di una politica, sì, i simboli. Ma chi se ne frega se c'è il coso, se ci sono i seggiolini dei bambini dietro la macchina, scusa. Ti rammento quando Prodi, presidente del Consiglio, nelle vacanze di Natale, caricava nella sua macchina a Bologna i tortellini fatti dalla signora Flavia e li caricava lui nella macchina. Ma che caricava? Che c'è bisogno di caricare i tortellini? Ma che stai dicendo? I tortellini. Vabbè, Michele Emiliano, Michele Emiliano, dall'altra parte sarebbe sconcio che due membri consanguini della stessa famiglia facciano parte dello stesso governo come premier e sottosegretario alla presidenza, cioè l'ipotesi di Gianni Letta sottosegretario con un'ipotesi assolutamente inesistente. Siamo qui la Zanzara 800 24 00 24 con Paolo Flores d'Arcais, direttore di Micromega. Buonasera. Buonasera. Come va? Triste? Vedo che voi siete molto allegri, a me sembra che siamo in una situazione che dire deplorevole è poco. Vabbè, adesso noi allegri, noi facciamo quello che possiamo, ci divertiamo, che dobbiamo fare? Mica possiamo buttarci dal burrone, caro D'Arcais. Deplorevole, comunque, dire, perché deplorevole, dice lei? Beh, la piccola antologia di Enrico Letta che avete fatto con dichiarazioni in cui... che si può dire di tutto e di più, di tutto il contrario di tutto, di più del contrario di tutto, la dice tutta sulla credibilità del personaggio, no? Ma è come avere e lo zio al governo, secondo lei? Come? È come avere lo zio al governo, uguale, identico? Ma guardi, lo zio probabilmente è peggio, ma è coerente, lo zio è sempre stato berlusconiano. Sì. Dunque è peggio Enrico, è peggio Enrico da questo punto di vista. Io preferisco l'originale, uno contraddittorio, come mentre uno berlusconiano coerente è peggio del peggio, ma certo la credibilità di Enrico Letta è un po' sotto lo zero, la vostra antologia è una piccola antologia, se si allargasse sarebbe tutta di questo genere. C'è dell'altro, tra l'altro circola su internet una roba che non si sa se... se è un'ansia del 2005 in un'intervista al Libero di Enrico Letta che dice: io sono un fan di Berlusconi, vorrei che rimanesse a capo del centrodestra, eccetera eccetera. Adesso quello bisogna ovviamente verificare. Vabbè, 2005. Quello però che mi sembra fondamentale è che questo governo che sta per nascere è in perfetta contraddizione con la volontà espressa dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani due mesi fa, perché alle ultime elezioni abbiamo detto tutti sono venute fuori tre forze grosso modo equivalenti. Sì. Una, quella del Movimento 5 Stelle, che diceva chiaramente si deve voltare radicalmente pagina. Poi il PD? Il PD i voti degli elettori li ha presi su queste parole d'ordine: mai più con Berlusconi per nessuna ragione al mondo. Sì. E Bersani che spiegava: noi siamo la vera svolta, molto più vera e più svolta di Grillo, quindi votate per noi. Però non gliel'hanno fatta, allora, questo è il punto, è successo un cataclisma dopo. Quindi la volontà di due terzi almeno degli italiani era estremamente chiara. Voltare radicalmente pagina rispetto a questi 19 anni. E il PD ora tradisce quei voti che ha preso, li utilizza per fare una politica assolutamente opposta, per fare la politica, ora io non lo posso neanche più chiamare inciucio. Com'è? Come si chiama? Qui siamo, non lo so, bisognerà coniare qualche cosa di nuovo che renda l'incredibile vergogna di questo un patto Stato-mafia, che è un, come il patto il voltafaccia totale di questo gruppo dirigente del PD, operazione Volta Gabbana, che non si era mai vista. Hanno preso i voti per una politica e li usano per la politica opposta. Ma qualcuno è sotto ricatto, qualcuno è sotto ricatto di Berlusconi? Lei l'ha detto già qualche volta. Io l'ho detto sulla base di una deduzione logica, perché quando per un comportamento non si trova una spiegazione, perché non dimentichiamoci che dal giorno dopo delle elezioni Bersani non ha fatto altro che dire che bisognava accordarsi col Movimento 5 Stelle. Sì. Nel momento in cui il Movimento 5 Stelle ti offre un nome che è del tuo mondo, della tua storia, e tu lo rifiuti e vuoi assolutamente offrire la rosa a Berlusconi, nella quale poi Berlusconi sceglierà il petalo Marini, come se si offrissero le rose a Berlusconi. Le rose si offrono alle fidanzate, alle amanti, alle mogli, non ai Berlusconi. Quando un gruppo dirigente arriva a fare questo, si rimane senza parole. Per cui secondo lei è giustificato il fatto che qualcuno abbia insultato Franceschini per strada? Ma guardi, io ho visto un po' di Coretti, di Sfottò. Niente di grave, dice lei. Non fa piacere essere insultati, ma io personalmente queste cose magari le evito. Vabbè, lei, ma il vero insulto, ma insulto sanguinoso, insulto insopportabile, è stato fatto agli elettori. Gli è stato dunque sono giustificate le persone che vanno a insultare Franceschini? Lei li capisce? Ma è inutile che lei cerchi di farmi dire questa cosa. Non cerco di far dire. Domani, ecco, Flores d'Arcais appoggia chi insulta, eccetera, eccetera. Il vero, grave, gravissimo insulto è di chi chiede il voto a un cittadino. Ho capito, però se io le chiedo, questo l'abbiamo capito. E poi prende quel voto e lo usa a fini opposti. Per fare altro. Questo è veramente per un politico il massimo dell'indegnità. Ah. Un politico che fa questo dovrebbe andare a nascondersi, mentre qui invece siamo alla santificazione dei politici che fanno questo. Allora come si può poi chiedere ai cittadini di comportarsi in modo coerente, in modo onesto, in modo specchiato? Ma lei è tristino, mi sembra abbattuto, molto abbattuto lei. No, non sono abbattuto, sono furibondo se vuole, ma non sono neanche furibondo, perché la cosa che hanno fatto va talmente al di là. Ma che si meritano questi qui? I peggiori riti della politica partitocratica, che io penso che naturalmente questo governo durerà pochissimo, perché non è detto. Un attimo solo, insomma, professore, un attimo solo. Abbiamo il traffico, torniamo subito. La Zanzara. Il grande Giorgio Napolitano è veramente un grande italiano, presidente siamo con te, meno male che Giorgio c'è. Vabbè, insomma, questo governo prende il via con qualche mal di pancia del Partito Democratico, eh? Qualcuno dice che deve durare al massimo 6 mesi, Marino che dice che una palla di dinosauri. Voglio chiedere a Flores. Civati che dice di non essere d'accordo, però alla fine sono tutti sotto Re Giorgio. Ma Napolitano sta facendo qualcosa di anticostituzionale, Flores? Questo è il punto. Di anticostituzionale in senso proprio no, perché siamo una repubblica presidenziale. Se un governo, anche con delle forze politiche che tradiscono smaccatamente le loro promesse, dà la fiducia a un governo, quel governo c'ha la fiducia. Moralmente sì, moralmente si sta tradendo la volontà della schiacciante maggioranza del popolo italiano. Vabbè, non è che la schiacciante maggioranza ha detto che bisogna mandare a casa Berlusconi, Flores, ma però. Sì, ma certo che l'ha detto, ma scusi, quando un terzo delle forze politiche è Grillo e l'altro terzo è il PD che ottiene i voti, capito, ma sulla promessa mai accordo con Berlusconi e poi lo fa, se permette, è esattamente ma questo. Non si può fare un governo per mandare a casa Berlusconi, cioè tra ma, 5 ma, Stelle e PD. Ma guardi, mandare a casa Berlusconi, cioè fare l'ineleggibilità, eccetera eccetera, era solo l'aspetto più evidente di un voltare pagina radicale rispetto a 19 anni di politica di Berlusconi e dell'inciucio che hanno ridotto questo paese a macerie dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale. Chi è che ha silurato, chi è che ha sabotato Prodi? Chi è che ha sabotato Prodi alla fine, secondo lei? Ma questo che ne so, D'Alema, il burattinaio D'Alema, che ne so? Le pare che lo so io. Non lo so. Ma non è questo il punto, cose. È che Franceschini domani voterà insieme a Cicchitto, insieme alla Mussolini, insieme alla Santanchè, insieme a Scilipoti. Alla Gelmini. Ora, alla Gelmini probabilmente saranno insieme nella compagine governativa. Come spiegheranno le fa schifo ai loro questo? Elettori che gli hanno dato il voto per un'idea assolutamente opposta a tutto ciò? Come glielo spiegano? Beh, gliel'hanno già spiegato. No, non gliel'hanno spiegato, non osano spiegarlo. Abbiamo visto che una quantità di sedi del PD sono occupate soprattutto da giovani che non ci stanno. Vedremo quanto durerà questo accordo contro natura, perché è un accordo contro natura che dimostra solo che un rapporto contro natura. Ma certo che è un rapporto contro natura. Come, guarda, facciamo una metafora, un rapporto guardi, io non riesco veramente a divertirmi. Ma io un po' mi diverto, perché, che devo fare? Io mi diverto con pazzo, però che devo fare? Va bene, ma sarà un problema mio. Siamo di fronte. Hanno tradito il 25 aprile, questa è una domanda, il PD ha tradito il 25 aprile? Domani sarà il più triste 25 aprile della storia d'Italia. Addirittura. E credo che il PD non dovrebbero andare alle celebrazioni. Credo che nessuno dei dirigenti del PD abbia la faccia tosta di andare a dire parole di retorica in quella data. Perché? Sarebbe un ulteriore insulto a i partigiani che ci hanno dato la libertà a rischio della vita, della tortura, dell'esilio. E che c'entra, eccetera, questo col governo Berlusconi? Col governo con Berlusconi, scusimi. Ma non c'entra, perché ha sentito Gasparri, le pare che Gasparri fa parte della Repubblica Italiana nata dalla resistenza antifascista. Vabbè, mica è un fascistone, mica è un fascistone contro la Costituzione. Non scherziamo con la storia di questo paese e con chi a costo del sacrificio della vita ci ha dato questa libertà. Ma questo vuol dire che secondo ora stiamo, o meglio, stanno calpestando. Cioè, secondo lei, facendo l'accordo col PDL, rinnegano i valori della Costituzione, non dovrebbero presentarsi alle celebrazioni del 25 aprile del PD? Beh, moralmente certamente li rinnegano. Senta, a ciascuno di noi, fin da bambino, almeno in molte case, viene insegnato che l'esempio viene dall'alto, che bisogna essere onesti, coerenti, eccetera. Allora, le sembra che prendere i voti su un programma e utilizzare quei voti per fare l'accordo con Gasparri, la Mussolini e la Santanchè sia qualcosa di diverso da rubare quel voto e sia onorare il 25 aprile. Se a lei serve questo. Cioè sono come allearsi con i nazifascisti, secondo lei. È inutile che lei continui a cercare metafore che vogliono essere insultanti. Perché più insultante di questo, non si devono presentare il 25 aprile. È chiaro. No, ma è chiarissimo. Non c'è bisogno di aggiungere un carico da 8 un aggettivo in più. Ma lei ha messo un carico da 90, no, allora, da 8. La parola osceno, esatto. Lei sa da dove viene? Sì. Viene dal latino obscena, sì. Le cose fatte fuori dalla scena perché sono particolarmente indecenti. Ecco, questo è quello che sta avvenendo in questo paese. Sulla scena c'era un elettorato che ha chiesto delle cose molto precise. E quelli rinnegano dietro tutto. La scena ci sono dei pseudo rappresentanti politici, quell'elettorato, che hanno fatto esattamente. Capito, Parenzo? Capito, Parenzo? Ma ho capito che per Florez Verkais questo governo è come via Rasella, è una roba, incredibile. Non scherziamo su queste cose. A via Rasella non c'entrano niente queste cose. Ma che c'è sotto? Scusi, non ho capito. Ma certamente. E chi si comporta così non può decentemente andare a ricordare domani i martiri della Resistenza. Ho capito. Senta, che c'è dietro secondo lei? Una protezione per Berlusconi? Un salvacondotto? La protezione, l'impunità per Berlusconi. È evidente che sarà l'ABC di questo accordo. Berlusconi non fa un accordo con nessuno se non ha garanzie su due cose, uniche che gli interessano, cioè? Che le televisioni non vengano toccate, il monopolio televisivo rimane monopolio, unica duopolio, quello nel che mondo occidentale, no, nelle televisioni private ha il monopolio. Poi? E che ha la garanzia dell'impunità nei suoi processi. E secondo lei, per concludere, tiene per le palle questo governo, il governo di Letta? In senso proprio tecnico, proprio lo tiene? Sì. Lo tiene così, eh? Vabbè, questo da un certo punto di vista è vero, perché se i contraenti sono due, tre, con Scelta Civica, se uno di questi contraenti si incazza, alla fine questo governo non tiene. Su questo non c'è dubbio, Caro Flores, buona giornata. Saluti. Buona giornata, buona saluti. Buona giornata saluti. Anche a voi. Pubblicità, giornale radio 800 24 0024. La Zanzara inizia così, ci sentiamo tra poco. Meno male che Giorgio c'è, come dice la canzone. La Zanzara. Mascalzoni, allora mi dice se è sì o no, fai passare se è sì o no. Io ho 59 anni, ne che sono buratino, ho lavorato con voi, non ne so niente, siete dei mascalzoni, avete rubato, siete dei mascalzoni, che se ti metti, se ti metti che è lascia. Lo psicodramma del Partito Democratico, accettare i ministri di Berlusconi come se fossero dei mostri e si diffondono le idee più strane e secondo alcuni più terribili, più malsane, un governo con la Gelmini, un governo con Schifani. Certo, se tu consideri queste persone delle merde per anni, se per anni hai gettato merda addosso a queste persone additandoli dei peggiori delitti dell'umanità e adesso Berlusconi te li piazza lì, si può capire, no? È difficile. Meno male che Giorgio c'è, come dice la canzone. E te credo, questi sono contenti come una Pasqua. Sono contenti come una Pasqua, amico mio. Maurizio Crozza, l'abbiamo già detto noi il giorno prima, per carità, comunque è spettacolare sui deputati che applaudono quando Napolitano li scudiscia. Cioè Napolitano ha rubato la battuta. C'ha 40.000 autori, figuriamoci se ha bisogno di noi. Napolitano prende la bacchetta, scudiscia, non avete fatto un cazzo, dice, e loro si mettono lì, sai come i sadomasochisti, no? Sai come nei club privé. Ancora più forte. Sembrava una convention sadomaso. Napolitano che frustava e loro che godevano. Siete dei caproni. Sì, ancora, dai. Siete dei caproni imperdonabili. Sì, sì, dai, dici quella bella. Quale? Turpi malcreati? Non avete fatto la legge anticorruzione, la legge elettorale? Sì, dai, ancora. Dimmi che sei da nipote di Brezhnev. Una convention sadomaso. Non stare lì così, mettiti comoda, comoda. Sull'erba butto spesso il discicori, cori. Non voglio farti fretta, ma troppo iniziare. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Incarico Enrico Letta, da domani le consultazioni, un esecutivo al servizio del paese, servono risposte, ma il governo non si farà ad ogni costo. Napolitano, confido nel successo, non c'è alternativa ad una larga convergenza delle forze politiche, compito duro, Letta giovane ma esperto. I vertici del PD assicurano sostegno pieno al nuovo governo, anche se restano dubbi, vendono a noi all'opposizione, ma è indecente definirci traditori. Il PDL alza il prezzo su programma e ministri, Alfano no a governicchi balneari, la Lega apre, il presidente ci ha ascoltato, ora sentiremo Letta. Grillo, il paese è allo stremo e loro si spartiscono ossa e poltrone, o si aiutano le piccole imprese o si muore, sondaggio TG3 sul tentativo Letta. Istat, al sud raddoppiati i disoccupati in 35 anni, soprattutto giovani, a febbraio nuovo crollo dei consumi, BCE attenti al debito. Associazione delinquere truffa in manette, l'ex tesoriere della Lega Belsito, nell'inchiesta anche un mega yacht acquistato da Riccardo Bossi. Zanzara! C'è una zanzara tigre! La fiera delle boiate, la fiera delle boiate. Sentite, Richetti, vale per tutti ovviamente, Richetti, deputato di Renzi, criticare Napolitano è come criticare San Francesco. Sentite. Oggi la capogruppo del 5 Stelle è andata a dirgli: sa presidente che con quella cosa che ha fatto è diventato un presidente, sì, di parte? Cioè, come se io andassi da San Francesco a dirgli: non ti stai comportando benissimo. Calmi con le rappresentazioni plastiche dei semidei. Ecco, mi pare tutti però sono fallibili, tutti sono fallibili. Senti la De Micheli, la, questione, la lettiana però, Matteo, De Micheli, però, un attimo solo, fammi dire una cosa. Sì, la sì, lettiana sì. De Micheli che dice: la contestazione a Franceschini ci ha fatto vincere in Friuli, secondo la De Micheli. La De Micheli. Avere, diciamo così, fatto quella manifestazione davanti al Parlamento il sabato prima delle elezioni in Friuli, contestando due persone straordinari come Franceschini e Fassina, sì, perché sì, avevano votato per Napolitano, non gli ha portato molta fortuna, no, sul piano elettorale, perché hanno perso 13 punti in Friuli, facendo vincere la nostra Debora, alla quale vanno anche per 1400 voti, in bocca al lupo, per 1400 voti. Ma c'è quel pezzo bellissimo di Crozzi in cui dice a Serracchia, non dice così ovviamente il romanaccio, lo dice a modo suo: hai vinto quando Bersani si è dimesso, sono bastate le dimissioni di Bersani per farti vincere. Vabbè, recuperiamo dopo, De Luca, vergogna, umiliazione. De Luca è sempre da ascoltare, sempre da mettersi lì ad ascoltare, De Luca, quello del morì ammazzata alla grillina. Ma vada a morì ammazzata. Personalmente non ho ancora consumato il senso di vergogna, di umiliazione che ho provato per quello che ha combinato il Partito Democratico in termini di inconcludenza e per l'immagine di correntismo, di frantumazione, di stupidità che ha dato. Ma va a morire ammazzato e vattene. Un ascoltatore ci scrive: almeno metteteci la Carfagna dentro il governo, no? Vabbè. Pietro da Roma, 800 24 00 24, siamo qui, ascoltatore, accorrete, ascoltatori, venite a noi. Che volevi dire, Parenzo? Scusa, che volevi dire? Ho sbagliato quello della coppia, no? Un attimo. Saluta Pasquinello. Chi è? Dove prendesti? Non ho capito, che c'è? Dove cazzo stai? No, sono qui alla Rai, mi sono perso nei corridoi, adesso alla sto cercando. Mi sono perso nei corridoi della Rai qui. Sì. Tu devi fare la trasmissione, no, i corridoi della Rai, devi fare la mi trasmissione. Sono perso qui. Mi ritrovano. Ma che volevi dire prima? Non ho capito. No, No, che volevo dirti che ti... Ah no, sul Napolitano, ma mi pare che tu non hai detto quello che ha detto Napolitano oggi, che la cosa più importante è che mette una pietra tombale su qualsiasi critica. Non c'è alternativa al governo Letta. Cioè, questo è il punto. La questione, non esiste più niente, non ce n'è più per nessuno. Gasparri al governo, Gelmini al governo, Cicchitto ministro della giustizia. Basta, tutto finito. Napolitano lo ha detto, datevi pace. Flores D'Arcais, datti pace. Napolitano ha detto non c'è alternativa al governo Letta. Questo è il tema del giorno. Grazie, buonasera, buona continuazione a tutti. Ci vediamo lunedì. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Pietro, dica, ha detto, allora, ha detto la cazzata della serata, ha detto questo. Buonasera. Dai, Pietro, dica. Allora, senta, io vorrei dire alcune cose, se me lo consente. No, alcune cose, allora, dipende. Intanto, poche cose. Tanto dico, ma domani è il 25 aprile. Ma vogliamo mettere una volta per sempre una pietra sul passato, sulle tensioni? Guardi, a me non me ne può fregare di meno il 25 aprile, per cui con me scondo la porta aperta. Dire, ma no, siccome domani c'è il 25 aprile, ma a me non me ne frega niente. Io non ho mai festeggiato in vita mia, non ho mai festeggiato in vita mia, mai. Vabbè, dopo due mesi di tentativi. Chi è mai andato a una manifestazione? Che sono mai andato a una manifestazione, secondo lei? Io non lo so. Non glielo dico, glielo dico. Mai andato, mai. Volevo dire questo. Era un giorno di festa come un altro per me, il 25 aprile. Però rappresenta qualche cosa di... rappresenta. Io sono apolitico, però santi Dio. Ci sono sempre stati solo i comunisti in piazza, fino a poco tempo fa. Allora, Pietro, quello che voglio dire è questo. Ma vogliamo mettere un po' di serenità... Dopo due mesi di tentativi vani, adesso abbiamo un grande presidente della Repubblica, un giovane che è stato nominato presidente del Consiglio. E allora bisogna abbassare i toni. Il professor D'Arcais, ma tutto sodio, ma da dove lo trova? E che ne so io dove lo trova? Ma perché non si è mai giocato a fronte? Ma basta, bisogna essere più sereni e favorire questo governo fatto da una persona veramente brava, mi sembra. Come dice Prodi? Com'è che diceva Prodi? Com'è che diceva Prodi? Serenità. Com'è? Davide? Sì, ci vuole un po' di pace, un po' di abbassare i toni. Abbassare i toni. Serenità che sta messa male. Ci vuole... Basta zanzara, basta urla, basta ascoltatori, ci vuole solo un po' di pacatezza, riflessione, mandiamo delle lezioni sull'Europa al posto della zanzara, lezioni su come è nata la comunità economica europea. Ma il professore è impazzito lei, scusi? No, niente niente. Ma quale chi, Beethoven bellissimo, due ore di Beethoven, ogni tanto qualche ascoltatore, ma che chiede al massimo la nona sinfonia, nulla di più. Beh, insomma, lei ci vuole mandare alla rovina, professor Prodi. Cruciani andrebbe benissimo in una radio in un altro paese, però me lo diciamo con calma, senza livore. Questo uomo che urla, che grida, che dice sempre sangue e merda, no, né sangue né merda, solo zucchero, miele, bontà, riforme, riforme strutturali del paese. Lezioni ad esempio sull'Europa, cominciamo. Chi era Altiero Spinelli? Ecco, cominciamo a discutere. Di Scusi, professore, questa è una cominciamo a discutere di Spinelli, ma con calma. Ma però con Altiero cominciamo a leggere le lezioni di Altiero Spinelli sull'Europa. Grazie professore, io continuo a fare la zanzara. Grazie. Alberto dalla provincia di Varese. Sì, lo so che lei non vuole chi, però Alberto, c'è un tasso di violenza che è fomentato nel paese con questo. Va bene, Alberto dalla provincia di Varese, noi contribuiamo fortemente, lo so. Alberto, dica. Sì, allora Cruciani, io vorrei dire una cosa, no? Che vuole dire? Molto importante dal mio punto di vista. Sì. Voglio essere chiaro. Domani non si festeggia l'occupazione, perché al modo mio invece si festeggia l'occupazione a catenaccio. Questi politici che si festeggia, scusi sì. Alberto, cosa si festeggia secondo lei? Non ho capito bene. Secondo me è l'occupazione a catenaccio. Ma che vuol dire l'occupazione? Mica è uno schema di calcio, cos'è? È una forma di imposizione politica. Qual è l'imposizione politica? Qual è l'imposizione politica? Quale? E l'imposizione politica è che sono degli inconcludenti e che ci vogliono vendere una politica che non porta nessun risultato. Ma io non capisco chi sarebbe. Sì, è chiarissimo. La destra che la sinistra. Ormai questi sono schemi che sono obsoleti, non vanno da nessuna parte. Vabbè. Questi sono capaci soltanto a promuovere la diversità della cristianità, che la promuove. Io ho quasi fondato un motto, no? Sì. La cristianità predica la povertà. Che cos'è che ha fondato lei? La sinistra, l'attua, la povertà. Alberto, si faccia curare un po', abbiamo la borsa. Calma, tranquillità, serenità. La zanzara. La zanzara che punge nel vivo. macchinari. Ah, mi ecco, denunciate, questo... io ho lasciato nome e cognome, indirizzo di casa, mi denunciate. Ma che chi? Sono bocchinari. Ma chi dovrebbe denunciare, scusi Savino? Sono i bocconiani del cazzo, ma che hanno distrutto l'Italia. Uccidi la zanzara. Io fra poco, io non sono quello che mi ammazzo, io ammazzo. No. Informatevi bene. Ma come perché ammazza? Fra poco se Befro viene a casa mia, io prendo a Befro, gli taglio la testa come Semerari. Ma perché dovrebbe gli taglio la testa come Semerari? Scusi perché sono agitato. No, è questo, sarà capito. E io proprio della gente che vanno in piazza. Belle sue curve, non posso. Perché io ho la quarta elementare, non mi sono mai seduto un banco di scuola. C'ho la boccone del marciapiede io. Scusi. Io li rompo il culo. A chi? Scuse, per carità, a chi? Avete capito? Ai bocconiani, io li rompo il culo ai bocconiani. Ma che c'entra i bocconiani, tu dici? Perché sono quelli che hanno distrutto l'Italia, le aziende. Però se la prendo per 20 anni sto cazzo da Berlusconi, che cazzo, ma magari fossero il fango che porta sotto le scarpe Berlusconi. Questi fanno i moralisti, sai come vanno? Quelli che fanno i moralisti sono i puttazzoni. Fanno i moralisti come... quelli della sinistra, dici tu, quelli della sinistra. Quelli moralisti sono come i preti, che prediti certi preti, e fanno i pedofili. Sì, Ale dice quelli della sinistra. Come certi preti, che prediti e fanno i pedofili. Così sono questi. Secondo Dagospia, l'auto, la famosa auto ormai, la Lancia con cui Letta è arrivato oggi al Quirinale, in realtà non è di proprietà privata, bensì del Corriere della Sera. Sono sparite le auto blu, ecco le auto RCS. Tenetevi forte, hanno detto che Enrico Letta è salito al Quirinale con un'auto privata, facendo credere che il nipotino di Gianni sia sobrio, tanto da evitare le ammiraglie presidenziali. Ma quando mai? Quella è la Lancia in uso ai dipendenti del Corriere, ovvero la metà di Enrico, Gianna Fregonara, capa della redazione della romana del Corrierone. E dove sarebbe lo scandalo? Però? No, ma che è uno scandalo? Nessuno scandalo. Quella se l'è comprata la macchina, scusa. No, gliel'ha data al Corriere, che è diverso. Ma non c'è niente di male. Ma non c'è come del Corriere, non sai come funziona. Io ho molti amici che lavorano al Corriere. Ma non mi interessa, do una notizia. Perché? Ma qual è il problema? Che problemi hai, scusa? Sei allergico alle notizie? Ma non ho nessun problema, sei allergico? Spiegando. No, non c'è bisogno di spiegare, non me ne frega niente. Ma non c'è bisogno di spiegare. È una non notizia, perché come tutti i Daniele da Modena, non difendere, non c'è bisogno. Hanno, scusami, non gliene frega niente a nessuno, Daniele da Modena. Aziendale. Possibilità, appunto, di comprare delle non macchine è comprare, con non è comprare, Daniele da Modena, no, comunque non me ne frega niente. Ma non regalata, è un uso come tutte i dipendenti. Daniele da Modena, buonasera, potrei fare un pulito. Oddio, ma qual è il problema? Sei allergico a queste cose? Sei troppo amico di Enrico Letta? Qual è il punto? Ma qual non è me il ne punto? Frega un cazzo. E allora ma stai calmo. Semplicemente allora che è una non notizia. Ma no, è una notizia, stai calmo, tutte sono notizie, non sei tu a decidere. Ma non sei tu a decidere quello che è notizia e quello che non è notizia. È proprio rincoglionita. Oh, lei, Daniele da Modena, buonasera. Della moglie c'è la macchina, che notizia. Ma cazzo, stai tranquillo, non ti ma tocca nessuno. La dinamica non, di come non, ti, non tocchiamo le tue persone, i tuoi amici, non ti preoccupare, Daniele da Modena, non facciamo nulla, diamo solo con notizie. Chi Parenzo, con chi ce l'ha? Ma no, non si possono dare notizie a persone gradite a Parenzo. Daniele da Modena, io ho dato notizie, amico, ho detto, non ho mica detto che è un criminale. Daniele da Modena, su. Ma con chi ce l'ha Parenzo? Non ho capito. Siccome tutti parlavano dell'auto privata, qualcuno ha specificato, non so se sia vero, vedremo, è l'auto non privata, l'auto in uso alla moglie di Letta, alla compagna di Letta, datale dal Corriere della Sera. Allora, posso rispondere a Parenzo? Sì, Daniele, ma non vedo qual è il problema. Sei tu, è Parenzo che trasforma tutto. Guardi, che dà la risposta a Cruciani che la ha sbasito. Alleluia, alleluia. Che vuol dire, scusi? Alleluia. Che vuol dire? Ha capito la metafora? No, non ho capito nulla. Allora, Letta, che non è una persona sprovveduta, sì, ha imparato da Papa Francesco. Cioè? Cioè, Papa Francesco che cosa ha fatto? Ecco il marco. Ha cominciato a tagliare anche lui, mi risulta. Vabbè, che... ha parlato 30 secondi oggi, Letta, che ha fatto di strano? No, cosa c'entra? È stato però è sufficiente, non bisogna parlare in questo paese, bisogna fare. Ma ho capito, ma ha parlato per 2 minuti davanti ai giornalisti dopo l'incarico ricevuto da Napolitano. Che deve fare, poveraccio? Scusi. Io un anno fa vi ho telefonato. Ma chi se ne frega? Detto, non mi ricordo. E vi ho detto che io ho una famiglia numerosa. Quanti figli ha lei? Io ero stanco di questi politici. E vabbè, d'accordo. E vi ho detto che voi siete vittime vittime del sistema. Ma io non sono vittima di nessun sistema, guardi, si sbaglia. Allora, sembra che ci sia uno spiraglio in questo sistema dove una persona che io reputo alla fine per bene, assolutamente, per benissimo, possa prendere un incarico, portarla avanti senza mostrare, senza ostentare un'auto blu, un'auto gialla, un'auto rossa. Ma non ha ostentato nulla, è arrivato con la sua macchina, su, è importante non fare né esaltazioni di questa cosa né condanne. Con una multipla metano era ancora meglio, se mi permette. Vabbè, questa è una puttanata, su Daniele, è la multipla metano, non è che se uno non ha la multipla metano è un criminale, su, dai. Scusi un attimo, eravamo alla realtà dei fatti, sì. Prodi prima l'ho sentito con Barisoni, che si gloriava del fatto di aver contrattato un marco a 9,90 e vabbè, l'euro. Prodi esalta quello che ha fatto, mi pare una cosa normale. Scusatemi, da allora il marco non è più a 9,90 e mi sembra che abbia cambiato come e allora? Cosa. Allora? Allora, ma come ha fatto Prodi prima? Come fa di solito? Come è stato a Barisoni, a Forum Economia? Come calma, tranquillità, serenità. Ha fatto così? Lei l'ha sentito? Io non l'ho sentito. Faccio sentire. Com'è che ha fatto? Calma, tranquillità, serenità. Così ha fatto? Sì, ha fatto così. Diciamo fatto che così. Prodi non è il massimo dell'empatia, se vogliamo, però neanche io lo sono. No, perché mica è necessario. Anch'io potrei dire... Daniele, l'abbraccio e la ringrazio, grazie. No. Che vuole no, ancora? No, aspetta un attimo, non mi bolli un attimo. Non mi voglia. Le voglio solo dire, faccio un piccolo esempio. Adesso, ho i figli tutti in scala, uno che va all'università e l'altro che arriva fino alle scuole medie. Ma chi l'ha fatto fare? Chi l'ha fatto fare? E dai pure con sta storia. Però insomma l'ho fatto, dai Cruciani. Allora, quanti ne ha fatti? Quanti figli ha? Quest'anno per sei. La prima volta. Quanti figli ha? Quanti figli ha? Adesso ce ne ho sei. Sei figli. Ma chi l'ha fatto fare sei figli? Comunque, sarà felice, per carità. Innanzitutto può dare il mio numero di cellulare a Letta, in modo che se Letta vuole andare in benissimo, dia il numero di cellulare a Letta, su. Mi chiama e poi mi dice... No, lo dia qua pubblicamente, No, che cosa lo dico? Numero di cellulare. Il mio numero di cellulare? Sì. Finisce per 384. Ho capito, c'è un miliardo di numeri. Insomma, è la privacy. Allora io... Con questi sei ragazzi sto avendo un'esperienza che è meravigliosa, oltretutto anche con mia moglie, va bene? Voi che ce l'avete tanto con i gay, invece posso dire che la famiglia, secondo me, rimane ancora un caposaldo della nostra società. Vabbè. Dunque? Io sto portando avanti sto concetto. Allora, per la prima volta, Cruciani e caro Parento, mio figlio che sta frequentando la prima superiore e qui comincia a diventare un pochino più... Senta, però Daniele, non è che posso fare la storia della sua famiglia, abbia pazienza, mi dica una cosa sintetica, su, non sia bravo. Cruciani, siamo a Modena, non siamo in capo al mondo, siamo a Modena. Arrivederci, grazie. No, Cruciani, grazie, mi sono scocciato. Danzano come zanzare. Allora, in appello, caro Parenzo, Berlusconi Lario, confermata la sentenza, cioè dal cavaliere 3 milioni al mese. Sì, questo. Questo che? Questa è una bella botta per il CAV che dovrà ridurre i costi della prossima campagna elettorale. Non credo. Franco da Roma, buonasera, Franco. Buonasera signora Cruciani. Vada. Senta, volevo soltanto ricordare, si ricorda Letta quando ha detto che preferiva più che votassero per Berlusconi che per il Movimento 5 Stelle? Sì, certo. Io sono uno del PD, eh? Sì. E questa cosa mi ha un po' colpito, perché uno che dice una cosa del genere, vabbè, era un movimento che ancora si doveva formare, insomma Beppe Grillo chiaramente era abbastanza agitato come persona, quindi poteva mettere un po' in crisi i politici, però arrivare a questo punto che preferire Berlusconi a un Movimento 5 Stelle, la cosa mi ha lasciato un po' discutere. Poi senta, voglio dire una cosa solo su Franceschini, io disapprovo quello che è stato fatto, però ci ricordiamo quello che è successo a Craxi e quello che è successo a Berlusconi l'11, no, per dire, però in quel caso il partito non è che si è tanto scandalizzato se le persone hanno criticato Berlusconi, l'hanno fischiato, gli hanno detto queste corna, insomma, quindi pure se si è beccato qualche parolaccia, insomma, non mi sembra che è una cosa così eccessiva, anche se io sì, però se uno ammette la possibilità che delle persone che sciamano per strada ti possano insultare dicendoti quello che ti hanno detto, ali mortacci tua, poi no, cos'è che dicevano, Parenzo, cos'è che dicevano? Ma che te magni, a ladro, ma la cosa no, non era che te magni, non era che te magni. Io guardi, non approvo questo. Però insomma, se vediamo Berlusconi di quello che viene detto, insomma, non è che ci vanno leggeri, insomma, non mi sembra che si scandalizzano questi del PD, insomma. Voglio dire, io sono molto critico, cioè nel senso io ma no, perché d'altra parte molti manifestanti in altre occasioni hanno fatto la stessa cosa, non mi pare che da dirigenti del Partito Democratico si sono levate voci di protesta, grazie stesso, Giancarlo da Roma. Mi dica. No, solo anche come avete fatto voi lo scherzo, per esempio, finché avete scherzato con le persone che non c'entravano niente col PD, tutto è andato bene. Poi quando avete toccato i 5, uno dei saggi, sì, anche tutti, cioè lo stesso il PD si sono rivoltati. Quindi voglio dire, queste sono cose secondo me che sono un po' ridicole, cioè voglio dire, uno deve accettare, è successo, vabbè, pazienza, poi chiaro c'è non bisogna alimentare questo. Va bene, grazie. Però, Patrizia dalla provincia di Vercelli, anzi c'è Giancarlo da Roma. Giancarlo, dica. Pronto, mi sente? Vada. Salve. Io volevo fare un piccolo breve intervento su quello che ha detto Paolo Flores d'Arcai, sì, allora, della reazione al governo che potrebbe fare Enrico Letta. Sì, dunque? Ma niente, era legato al fatto che oggi, per esempio, ho letto la notizia della morte di Teodoro Buontempo, sì, che, come si sa, è un esponente della destra italiana. Vabbè, allora? Dell'MSI. No, niente, non capisco perché ci si stupisca del fatto che comunque sia esponente del PD ottenti di fare un governo con persone del PDL, dove ci sono anche persone che vengono dall'Alleanza Nazionale, quindi dall'MSI, quando l'MSI per 50 anni è stato praticamente... Vabbè, adesso non ci faccia la divisione, la difesa della storia dell'MSI. Flores d'Arcais, gli fa schifo l'accordo con Berlusconi? Flores d'Arcais fa schifo l'accordo con il PDL e dice che i dirigenti del Partito Democratico non dovrebbero nemmeno andare a festeggiare, sì, infatti, però, a festeggiare il 25 aprile, appunto. È un controsenso, ma non per... Vabbè, ma è una cazzata pure per me, cosa vuole che le dica? Giancarlo, è una stronzata. Come posso dire, è un atteggiamento... Ma no, perché guarda, io le dico, io non sono... Sì, ma non c'è bisogno di spiegarlo. Uno che dice che i dirigenti del Partito Democratico non devono andare a festeggiare il 25 aprile perché sono indegni, eccetera, eccetera, perché tradiscono i valori della Resistenza. Ma c'è bisogno di aggiungere qualcosa? C'è bisogno di aggiungere qualcosa, secondo lei? Bisogna aggiungere qualcosa o no? No, diciamo che... E allora, basta, non bisogna aggiungere nulla. Non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da commentare. Patrizia dalla provincia di Vercelli. Allora, buonasera, sono occasionalmente nella provincia di Vercelli perché viaggio, sono di Aosta. Ce ne faremo una ragione. E non si preoccupi, volevo solo dire che c'è da aggiungere qualcosa a quello che ha detto il professor Barcais. Sì, che c'è da dire? C'è da aggiungere che meno male esistono persone come lui capaci di leggere la realtà in maniera pacata, corretta, chiara, trasparente, senza parolacce, senza tentativi di sminuire una realtà che è drammatica, combattute sterili. Mm-hmm. E quindi a chi si riferisce? A noi? Di sentirla, mi è spiaciuto, scusi, sì, se glielo dico. Prego. Mi è spiaciuto il modo in cui lei lo ha trattato. Lo interrompevo per fargli altre e domande. Dico che meno male che il professore è riuscito a dire delle cose, sì, corrette, giuste, che la maggior parte degli italiani condividono. Ma chi l'ha detto? Lei che c'ha il sondaggio degli italiani? Che fa? I sondaggi in diretta? Lei il che professore fa? C'ha una casa di sondaggi. Due terzi degli italiani hanno espresso questo volere. Ma non è vero, quindi, ma non è così. Ma non... Lei dicendo non è così, non è vero, non mi convince perché ci sono i fatti. Buonasera, grazie di avermi dato spazio. Prego, grazie a lei, non si preoccupi. Well now, little mosquito, there must be well some reason for you that I just can't see. Well there is, well you're right son, you see God put me here just the same as he put you, so I'm nature's mosquito. Abbiamo con noi, caro Parenzo, una delle passionarie del PDL, per la prima volta alla Zanzara, la senatrice Simona Vicari. Buonasera. Buonasera a voi tutti. Come sta? Che meraviglia. Come sta, cara senatrice? io sto bene, molto stanchi, ma meravigliosamente, bene, meravigliosamente, mi dica la verità, voi siete in siete come dice Parenzo quando una in persona brodo di giuggiole, pronti a portare Cicchito al governo, complimenti, molto bene. O no? No, noi siamo bene per altro, non per questo. Vabbè, anche per questo, su. Scusi, un anno e mezzo fa sembravate morti, mo' entrate al governo coi ministri, ma più di questo, scusi, lo ammetta. Ma visto che Berlusconi fa veramente i miracoli. Ma lui li fa i miracoli secondo lei? Adesso parlo un po' in palermitano anch'io, ma lei, ma Berlusconi li fa i miracoli? Lo sa che io ho abitato in Sicilia diversi anni, per cui lo so. Ah, sì? Padroneggio. Bello, bello. Padroneggio un po'. Molto bello. Li fa i miracoli sul serio Berlusconi secondo lei? Sì. Un po'. Eravamo al 14, ci ha portato al governo. 24, 22. Al governo. Al governo. Andarci vincendo. Come? Ho capito, qui lo 0,4%, 0,3, quello che è 0,3, non si può avere tutto dalla vita, senatrice Vicari. Se vincevate però adesso vediamo, non è che è scontato che andiamo al governo. Ma come non è scontato? Un attimino, vediamo, insomma, perché il PD oggi è stato molto molto pesante con noi. Ma che a te, come pesante? Che hanno detto, questi sono tutti bastonati, questi qua sono dei cani bastonati, signora Vicari, ma non li vede, ma decide tutto la politica. Sono d'accordo con lei. Però sono stati molto pesanti. Che hanno detto? Chi è stato pesante? Ma anche oggi pomeriggio ho visto un'agenzia di Gozzi, credo che fosse. Ma Gozzi non conta nulla, signora Vicari, è un deputato prodiano. Che vuole che conti, su. È vero, sì, fuori ancora arrabbiati per aver avuto mandato a casa definitivamente. Ma come li vede lei? Come li vede? Un po' con le orecchie abbassate, come dei... Allora, no, trovi veramente una varietà. Quelli più simpatici finalmente ridono. Sì. Quelli invece cioè ridono perché? Perché sono perché contenti, dice? Soddisfatti. Perché? Perché hanno vinto sull'altra parte che invece voleva l'accordo con la sinistra, sì, eccetera. Esatto. Cioè quelli più moderati, quelli più e chi simpatici, sono? Chi sono? Liberati. Tipo? Ma oggi ho incontrato Romani, è un deputato del PD. Sì, non è Paolo Romani, contento, quello del allegro, PD. Allegro, soddisfatto. Ecco, Boccia pure, Paolo. Boccia, felicissimo lo vedo io, ride come un pazzo. Ah, Boccia è abbastanza soddisfatto anche lui. Poi trovi invece quelli che erano sempre lucubri, quelli sempre che non ridevano mai. Sì. Sono, ecco, cari bastonati. Quelli sono incazzati. Ma questa è la dimostrazione, voglio dire, che tutti questi stavano insieme soltanto perché dovevano combattere Berlusconi, come se Berlusconi fosse un virus. E dovevano, a momenti in cui è venuto meno il nemico, si sono sciolti come neve al sole e sono venuti fuori i loro veri animi, vedi un po' Vendola, vedi i moderati, vedi quelli che sorridono finalmente. Quelli... Che c'è, Parenzo? Ma perché stai fai queste cose? No, ma non era per la senatrice, tutt'altro. Oh, ma la senatrice è una persona ha tirato la cosa del cesso, come al solito. Ho chiesto scusa e ho detto... Ma scusa, hai detto scusatemi, hai tirato la catena del cesso davanti alla senatrice Vicari, vedi che sei impazzito, sei... Allora, se vuoi saperla tutta, no, ma non potevo... dentro io lo so che senatrice, lo dico per questo, siccome sono nei gabinetti della RAI, mi sembrava brutto e maleducato lasciare il prodotto. Ma uno potrebbe anche non andare al bagno mentre sta alla radio a fare la trasmissione, così è un'indicazione di massima. Però siccome non siamo a Guantanamo, siamo in un paese libero, e quindi se uno mentre lavora deve fare la pipì va e tira anche l'acqua a casa mia. Se a casa tua invece, a Radio 24 invece è usata, no, io sono della corrente, mi ricordo che un ex direttore del WWF, anche la Vicari tira l'acqua quando va al bagno, immagino. Lei tira l'acqua al bagno ogni volta, signora Vicari? Certo, no, perché due volte. Deve sapere, come due volte, una basta, se no si spreca l'acqua. No, due, l'acqua. Perché c'ho quella di 3 litri e c'ho quella di 9 litri, quindi a volte tutte e due. A volte, per essere sicura, tutte e due. Lei deve sapere che c'era un ex direttore del WWF, non mi ricordo chi fosse, che una volta disse che l'acqua si tira una volta al giorno, cioè uno va in bagno a casa, una cosa terribile, disse. Uno va in bagno, fa quello che deve fare, qualsiasi cosa si tratti, e non entriamo nei dettagli. Lascia anche Grillo lo dice sempre. Come lo dice? Ma è evidente. Ma come? Ma Cruciani, è evidente, porca puttana, lo fanno anche in Germania. Ma quando tu per una settimana consumi energia, a casa mia moglie impazzisce, perché io ho bloccato lo sciacquone. Devi tenere, tu devi accumularsi tutto. Ma come? E una volta alla settimana tiri. lo fanno anche in Svezia, lo fanno. Ma perché? Ma non è vero, una settimana è eccezionale. Tu devi avere il bagno che il bagno, ma siete dei coglioni, non capite, li siete morti. Ma il bagno deve ogni volta, io ho sei figli, mia moglie, impazziscono tutti, ma e non capisco, cioè il bagno che adesso ma da scusi, una settimana, lei, domani Grillo, è il giorno che si lei ha bloccato i cosi, ha bloccato gli ma scarichi. Ma vaffanculo, ho bloccato tutti gli scarichi di casa. Ho chiesto prima alla rete, però. Ho chiesto alla rete come faccio ad applicare la decrescita felice a casa. E dalla rete un coglione di Lecce mi ha detto: non devi tirare l'acqua. Il popolo ha deciso. Per una settimana ho bloccato tutti gli scarichi. Mia moglie è impazzita e andata via di casa. Beh, ci credo. Ma va bene, ma è la rete che l'ha deciso. In Germania lo fanno. Ma non è vero, sta cosa che in Germania lo fanno mi fa impazzire. In Germania, ma in Germania ti dà fastidio perché non sai un cazzo, non giri il mondo. Io con il camper, con Casaleggio tutte le volte. In Germania lo fanno, la Merkel lo fa. Non tira mai l'acqua, anche se una culona è chiavabile. Non lo tira mai. Mai. Ci sono dei problemi, c'è una puzza pazzesca lì dentro. Ma è la vita. Vabbè, chiudiamo questo collegamento. Sì. La vita? La vita puzza. Beh, la vita puzza, ok, mi dico, uno però tira l'acqua di solito. Comunque. Decrescita. Grazie per questo collegamento con Grillo. Morto. Ritorniamo con la senatrice Simona Vicari. Parenzo, ci sei? Sì. Sei pronto? Davide? Certo che ci sono. Ah, ecco. Certo, scusami. Signor Vicari, ma la maglietta Il diavolo veste Prodi, fantastica maglietta, devo dire che qualcuno vi ha rimproverato. Secondo me, guardi, Parenzo si è scandalizzato per quella maglietta. Io personalmente non mi sono scandalizzato. Non faceva del male a nessuno, uno può portare la maglietta che vuole. Lei come se la tiene questa maglietta, questo amuleto? Bisogna dire che ha portato bene, Ho portato bene, di solito io non ho queste manifestazioni così eccessive, se non faccio ma la... mi è proprio venuto assolutamente naturale. Lei è venuto proprio naturale a Prodi. Davanti a Prodi, sì, Prodi davanti a lei, Prodi, le fa, guardi, schifo è Prodi stato irresistibile, è stato cioè, proprio irresistibile. Prodi per lei proprio le fa schifo, mi dica la verità. Prodi proprio sarebbe stato una sciagura per il nostro paese. Ma la faccia di cioè proprio io avrei accettato tutto e di tutto. Tutto. Ma davanti a Prodi proprio mi ha scatenato questo odio terribile, irresistibile. Proprio non ce l'ha fatta davanti a Prodi. Non ce l'ho fatta. E poi la maglietta è appesa a casa. Adesso non so, Alessandra che è comunque una più fanatica. Sono fanatica pure lei, non è? Le sta vendendo. Le sta vendendo su eBay addirittura. Ma lei la venda. Ma la venda pure lei. Quanto può valere quella maglietta? Scusa, l'originale, non le copie. L'originale, quanto può valere? Ma se avesse un valore veramente, ne sarei felice. Metterei all'asta e poi facciamo bene. Mettiamola all'asta. Su, mettiamola alla Zanzara. Come aiutate? Se mi aiutate. Oh, mettiamo all'asta. Iniziamo l'asta in questo momento. C'è la pubblicità 19:56. La maglietta indossata dalla senatrice Simona Vicari from Sicilia, in particolare from Palermo, PDL. Il diavolo, com'è che c'era scritto? Diavolo veste Prodi. Vabbè, ci risentiamo tra un attimo. Scatta l'asta, è offrita, Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. La Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei per mare. Siamo ancora qui. Solo per disturbare. Siamo come lei, siamo come lei. Io sento Paolo sempre parlare di grandi spessori politici e vedo dei mediocri faccendieri da 20 anni. Ma quale spessore politico? Cosa ha fatto Amato Abile al di là di quello che ci ha ricordato Fiorello per questo paese? Lo stesso Amato, trombato dalla corsa alla premiership, che dice: io non ho il vitalizio, non sono un cumulatore di prebende, ripeto, il vitalizio ce l'ha, solo che lo dà in beneficenza, ma non c'entra nulla, il problema è il cumulo, come si arriva al cumulo, questo è il punto, è questo che dovrebbe essere proibito, questo che dovrebbe essere ridimensionato, il cumulo fino a 31.000 euro lordi, 31. Lei con quella domanda fa apparire un cumulatore di prebende l'unico ex parlamentare italiano che ha rinunciato al vitalizio. È un po' il mondo alla rovescia. Ma in realtà non ha rinunciato, lo dà in beneficenza, cioè, e può toglierlo dalla beneficenza da un momento all'altro. Non c'è nessuna rinuncia, a me fanno impazzire queste cose. Non ha rinunciato perché non si può rinunciare al vitalizio, si deve incassare per forza. Certo. Bene, siamo con noi, intanto sta impazzando l'asta in diretta qui alla Zanzara sulla maglietta Il diavolo veste Prodi della senatrice Vicari. Scusami, richiesta tecnica, mi alzate il ritorno che al telefono fisso sento più basso, signor Cruciani, grazie. Sì, prego, alzeremo. Ma non faccio il cretino, ecco. Non faccio il cretino. Vabbè, allora venga lei a condurre, a fare la zanzara, scusi, invece di star lì. Guardi, c'è qualcuno, senatrice Vicari, che offre fino a 2000, Ah sì, vero? 2000. Bene, 2000. Bene, sono molto contenta. Scusi. Adesso io poi la mando a voi e decidiamo a chi mandare questi soldi in beneficenza. E mandiamoli a qualche fondazione prodiana, Nomisma, la fondazione Nomisma prodiana. Senz'altro, mi taglio il dito piuttosto. Addirittura. Non per Nomisma, che sono bravi. Senta, ma se fosse diventato Presidente della Repubblica, che avrebbe fatto lei? Mi sarei molto dispiaciuta. Vabbè, questo è scontato, ha fatto la maglietta. Molto, tutte le mie speranze sarebbero cadute. Molto, molto. Per adesso comunque è appesa lì questa maglietta, eh? Appesa in armadio, non è lavata. Non è lavata, cioè soltanto 2-3 ore, no? Puzza un po'. Non è lavata, l'ho tolta, appesa. Appesa lì, eh? Essendo di farne buon uso, se si può. Lo sa che diceva Enrico Letta nel 2005, sono un grande fan di Silvio. Sono un grande fan di Silvio. Sembrerà assurdo, 18 settembre 2005, ma se non si era ancora capito, sono un grande fan di Berlusconi. Berlusconi ha fatto la storia d'Italia degli ultimi 10 anni, anche se i grandi prima o poi si incontrano. Lei dice che i grandi si incontrano, eh? I grandi prima o poi si incontrano. Anche se vorrei che fosse meno sborone e raccontasse meno balle agli italiani, questo diceva Letta. Mantengo una linea molto critica con Berlusconi, vorrei fargli un appello inedito, vorrei, a prescindere dall'esito delle prossime elezioni, erano nel 2005, vorrei che dicesse subito che lui si impegna a rimanere nella vita politica italiana e a mantenere la sua leadership del polo, perché il mio grande timore è che un Berlusconi che pareggi o perda faccia per un biglietto per Tahiti, eccetera. Se Berlusconi facesse questo gesto sarebbe la tomba del bipolarismo italiano, farebbe precipitare il centrodestra indietro di 10 anni. Cioè, Enrico Letta era uno che diceva sono un grande fan di Silvio. Sono un grande fan di Silvio. Nel mio governo ideale vorrei mio zio Gianni e Tremonti. Ha capito o no? Ma lei chi vorrebbe nel governo, signora Vicari? Io vorrei politici. Cioè, vorrei, per esempio, vorrei tante donne. Verdini, non vorrei vecchi. Verdini lo vorrebbe? Signor Verdini? Verdini, ma lui è così impegnato nel partito, non lo so se no, può. No, Verdini no, è Parenzo. Purtroppo non è Verdini niente. Perché Verdini no? Schifani? No, dico, fa così bene nel partito, si occupa di tutti, come faremmo noi senza Verdini al partito? Non c'è dubbio, come fareste senza Verdini? Schifani? È così anche come Alfano, devo dire, perché se dovesse andare Alfano al governo, è il partito. Beh, però Alfano sembra di sì, Schifani lo vorrebbe, sì, Schifani sì. Schifani, guardi, Schifani ha fatto così bene, secondo me, il Presidente del Senato. Beh, sì. Che adesso è ritornato di nuovo a fare il capogruppo. Uno non si può, insomma, secondo me. Beh, come non si può? Saltellare. Cioè, lui riesce a mantenere un ruolo istituzionale per quello, e quindi se deve essere un ministero, deve essere un ministero importantissimo come quello degli interni. O altrimenti non lo vedo. Sono certa che lui, conoscendo anche che lui, non accetterebbe nessun'altra parte. Fa il capogruppo. Vabbè, ma per lei, gli piace tanto. Per lei, chi dovrebbe andare al governo? La Gelmini? Dovrebbero andare tutte donne. La Gelmini sì. La Gelmini sì. Donne, la Garfagna che è veramente tanto brava. La Garfagna sì. La Santanchè è un'altra donna eccezionale. Sì. Sicuramente queste donne. E poi chi, sono, scusi, la Santanchè ha detto? La Santanchè ha detto? La Santanchè sì, bravissima. La Santanchè è bravissima, è al governo. Penso forse un governo con la Santanchè, con Enrico Letta, Parenzo, pure in Germania lo fanno. La Giammanco? Però ha visto Berlusconi e Re, Berlusconi e Letta. Perché non Letta e Santanchè? Perché non Letta e Santanchè? No, per carità, nessuno dice niente. Ma Berlusconi al governo che dice lei? Berlusconi? Ministro dell'Economia, perché no? Ah, ministro dell'economia, però Berlusconi secondo me può andare al governo in un governo del centrodestra. Del centrodestra, no, adesso certo. Però più donne, mettiamoci veramente tutte le donne, le donne le ha detto la Santanchè, la Gelmini, no, vanno benissimo. Ma almeno tante. Un uomo, dai su, Brunetta. E poi no, tutti Brunetta rappresentati, non soltanto uomo, donna, tutti. E che pure i gay, dice lei? Tutti, certo. Ma quanti ce ne sono di omosessuali secondo lei? Perché nessuno fa coming out? Là devi distinguere tra quelli che riconosci e quelli che sono nascosti. Quanti ce ne sono nascosti nel gruppo del PDL secondo lei? Ah, questi non lo so. Ma ce ne sono secondo lei? Non lo so perché non me lo dicono. Però ce ne sono? Sì, secondo me sì. Ce ne sono, Ma quanti ce ne saranno? Una decina, no? Noi siamo 91, una decina, sì, bravo. Una decina ce ne saranno al Senato. Sì, ma poi non ce ne sono così belli. Io perché si devono nascondere non lo comprendo. Ma nel PDL, appunto, facessero coming out questi qua. Ma dovunque sì. No, ma questi che 10 che dice lei sono nel PDL, ce ne saranno almeno una decina? Sì, secondo me ci sono. 8-10, sì, ci sono. 8-10. Beh, sì. Ma sono nel PD dappertutto. Dappertutto. Ma perché non vengono fuori questi qua del PDL? Questi qua. Ecco, dovrebbero venire fuori. No, il PDL, tutti dovrebbero venire ma fuori. Ma gli altri un po' ci sono. Altri senatori o deputati di altri gruppi ci sono che fanno coming out. Sono tutti però della sinistra, PD oppure Sinistra Ecologia e Libertà, di Vendola. Perché il PDL? Perché noi abbiamo ancora dei preconcetti abbastanza forti e duri. Che capisco che inibiscono. Vedete questa pubblicità che fanno per adesso sulla parità, no? Sì. L'ho vista, questa sponsorizzata dalla Presidenza del Consiglio, sì, molto sì, bella, molto intelligente. Comunque Berlusconi poi tra l'altro ama tantissimo i gay, no? No. Come no? Solo le donne. No, solo però ama pure i gay. No, ma li ama, ama circondarsi anche da omosessuali, Ama circondarsi da persone intelligenti. Intelligenti, questo, non c'è dubbio. Sì. Senta, ma questo è grande, perché normalmente insomma si i grandi. Circonda... Secondo lei che posto ha nella storia Berlusconi? Berlusconi, secondo me, ormai le mie figlie no, perché sono un po' grandettine. Cioè quanto? Ma quanto una hanno? 18, sì. 18 e 15. È un mito ma per loro non Berlusconi? Sono certa che sarà alcune sue pagine saranno scritte nei libri di storia. Nei libri di storia, per esempio? Soprattutto no. Sullo scontro con i magistrati, sì, beh, certo. Sul G8 a Napoli, ci sono dei momenti proprio storici che saranno scritti da questo scontro tra politica e magistratura che ha condizionato nei libri di storia, la vita del nostro paese. Nei libri di storia, dice lei. Ma no, ma come statista, lei che posto mette con tra gli statisti italiani, sono Berlusconi. Tra i migliori, se mi dice qualche altro nome facciamo una classifica, ma certamente tra i migliori. E sono passati 20 anni. Ha mandato tutti a casa. Tra il giorno in cui sì. Si stava facendo il Presidente sì. Della Repubblica, circolava in rete, sicuramente voi l'avete anche visto, sì. Che Berlusconi era indagato per strage. Perché sì, aveva come, certo. Distrutto mandato tutti a casa i segretari, tutti i segretari tutti, del PD. Tutti, c'è cioè la Boccassini che indagava. Sì. Ecco, lui è stato capace di superare tutte queste montagne russe, è ancora qui. Vabbè, ma comunque insomma, il più grande statista del dopoguerra. È tavolo col PD, e pare poco, ma no. No, ma infatti è tenuto al tavolo col PD da questo punto di vista, ma il più grande statista del dopoguerra, si può dire? No. Insomma, siamo lì. Prima ci sono stati c'è dopo De Gasperi, chi c'è dopo De Gasperi? Sì, sono fondatori della nostra Repubblica sicuramente. Vabbè, sì. Insomma. E poi il nostro Berlusconi. Dopo c'è Berlusconi. Piaccio, no, è così. Il nostro Berlusconi. Devono digerirlo, No, dice il nostro Berlusconi. Adesso il nostro Churchill perché... dovremmo dire, Churchill si può dire, ma il nostro Berlusconi adesso un po' eccessivo. Scusi, lei ha fatto però, mi ripete questa cosa, Berlusconi è il più perseguitato della storia dell'umanità, perché è una cosa che io ho letto. Ma no, ma non è sì, vero, sì, scusa, ma... una Vicari, su. Ah, no, no, no, allora, se volete ci dedichiamo anche una puntata, poi insomma Gomez mi ha stimolato una risposta del genere. Addirittura, cioè il più perseguitato dell'umanità, signora Vicari, dell'umanità. Ma dell'umanità è certamente un paradosso, ma è voluto la ricerca del paradosso, perché è talmente stato perseguitato da quando è sceso in politica, sì. Che non è una cosa normale, la sua l'essere braccato in questo modo sì. Dalla giustizia non sì. È una cosa normale, quindi paradossalmente voi diventa il più perseguitato dell'umanità. Mi dicono che fra poco c'è di nuovo un collegamento con Grillo che ci deve un po' spiegare cosa succede nel suo bagno, perché ci sono dei casini pazzeschi fra un istante. Intanto mi dicono che la sua maglietta in realtà è stata copiata nel 2006 da una stessa sì. Maglietta, il diavolo veste Prodi, in una manifestazione contro Prodi del 2006, È vero, infatti dei miei colleghi poi hanno portato delle magliette bellissime. Sì, fatte sì. Proprio per me le hanno mandate anche a me. Alessandra le ha fatte in quel momento a mano artigianalmente, non avevamo altro. Tutto merito suo. Offerte oltre i 2000 qua, oltre i 2000, offerte bene, oltre i 2000. Capito, senta, ma perché queste donne, perché tutte queste donne del PDL si fidanzano con i politici del PD? Abbiamo, insomma, De Girolamo fidanzata con Boccia. No, sposata. Sposata, sì, fidanzata, sposata, eccetera. Adesso la Ravetto fidanzata con un altro del PD. Ma come mai si scelgono solo uomini del PD? Non ce n'avete voi di decenti? No, non è questo. Probabilmente no. Beh, capita. L'importante è capire perché due culture che sembrano così distanti poi riescono a stare insieme. No, ho capito. Vabbè, d'accordo, domanda. Però... Scusi, non è un po' strana questa cosa? Scegliessero qualcuno del PDL? Ma l'amore non lo puoi comandare. Però non è un caso. Due donne, tutte e due donne del PDL stanno con politici del Partito Democratico. Scusi, io mi sentirei, fossi un uomo del PDL, mi sentirei un pochino così, no? O no? Diciamo a questo qualcuno, se è ancora solo, di cercarsi qualcuna bella nel PD. Ma forse quelle più belle sono nel PDL, non lo so. Dice lei, Forse. Ma nel PD chi è il più bello di tutti, secondo lei, del Partito Democratico in Parlamento? Ho difficoltà. Cioè, no, non manco uno. Cioè, Ricchetti. Lei starebbe mai con uno del PD? Io sì, certo, perché no? Perché no? No, mio marito, mio marito è di Rifondazione Comunista. Ma no, ma cioè, certo, non è un deputato. Ah, non cioè, è un vota, deputato. Vota la sinistra. No, adesso credo non più. Quando sono stata candidata io ha votato sempre per me. Però la sua storia politica, anche di suo padre che era responsabile tanti anni fa del partito di Rifondazione Comunista nel paese di Cefalù, dove loro ancora stanno, era comunista, vabbè, alla fine vede, comunista di quelli proprio che ce ne sono pochissimi. Tutto torna comunque, tutto torna, tutto torna, tutto torna, tutto. Visto questo non lo sapeva nessuno. Tutto torna, tutto torna. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Va bene, siamo qui, caro Parenzo. Un attimo solo. Grillo? Grillo? Ma perché mi rompete i coglioni che sono qui, che sto combattendo? Non la devi tirare l'acqua, la rete l'ha deciso. Ma chi? Ma quale rete ha deciso? Scusi, signor... Allora, la questione è questa. Da una settimana a casa mia non si può più tirare l'acqua. C'è un puzzo di merda pazzesco. Incredibile, ma in Germania lo fanno. Ma non è vero. Lo fanno ovunque. Allora, se vogliamo applicare la decrescita felice, quella dove non c'è il... L'acqua è un bene prezioso. Lo volevate privatizzare voi della Confindustria. Noi abbiamo detto che è un bene pubblico. Allora non va usato. Ma dappertutto, non va usato, va si risparmia. Ogni volta uno va al bagno, fa la popò e tira l'acqua. Che schifo, ma perché? Cioè bisogna lasciare tutto così? Ma tu, ma strati e strati per una settimana. E poi? Allora a casa mia sono impazziti tutti, se mi hanno lasciato da solo. Non capisco, c'è un puzzo pazzesco, ma sono solo. L'unico che è qui è Casaleggio, che riprende tutto con la telecamera. Una cosa pazzesca. Però la rete ha deciso. Non si tira l'acqua, ma non ci si pulisce neanche con la carta che inquina. Ma dov'è che lo fanno? Non ci si può pulire con le foglie. Ci si pulisce col giardino, si va lì in mutande, si tira giù le mutande, ci si strofina un po' sul giardino. Mia moglie non lo vuole fare, perché dice che non si fa. Io ho detto fate così, pulitevi nel giardino, senza la carta, si inquina. Inquinate tutto, siete morti, un nuovo modello di sviluppo bisogna pensare. Ma ho capito, ma in Germania non è... Vabbè, comunque. In Germania lo fanno, ma anche in Svezia, ovunque. Vabbè, d'accordo. La l'ho fatto, anche Kohl lo faceva, anche Kohl che era di destra lo faceva. La Merkel, la maggior... lo fanno tutti i paesi, solo noi ancora abbiamo questo. Cicchito ancora tira l'acqua, non capisco. Scusi, signora Vicari, ma è vero o no quella battuta di Berlusconi sulla Merkel? Dipaniamo questa cosa definitivamente, la culona è inchiavabile. L'ha mai detto o no, secondo lei? Ma secondo me... Sì, secondo lei sì. Devo dire la verità, secondo me sì. Ah, secondo perché lei perché lui sì. Queste battute umoristiche... Ce le ha, le appartengono, ma lo fa per ridere, lo fa con contentezza, non è che lo fa per... Cioè lei l'ha sentito anche qualche altra volta? È una persona che la mattina si sveglia e ride. E ride. Ride, sorride, di una... Ma la barzelletta più bella che ha mai sentito da Berlusconi qual è? Ah, guardi, Berlusconi a raccontare barzellette uniche. Me dica, perché poi, sa. No, io adesso me lo ricordo, però vi dico questo, che lui non si limita a raccontarle. E che fa? Mima, lui le fa. Mima le barzellette. Le mima, beh, certo. Le mima in una stanza, non è che le mima sul posto. Sì. Lui si muove, si va spostando, è proprio una scena di teatro e lui la svolge tutta, è eccezionale. Eccezionale. Vorrei ricordare però a Grillo, sì, visto che fa questo tipo di operazione, sì. Che di ricordare a tanti, non sì, di Pallugna, ricordiamo. A tanti, che quando si tira poi lo sciacquone di tenersi. Cioè, perché sennò va a finire pure lui dentro? Perché non sono un po' rischia, stronzi, rischia. I grilli sono un po' stronzi. Sono stronzi, Ma come, perché sono così stronzi secondo lei? Perché la saccenza è quella la saccenza. Che io non lei accetto. Quando li incontra in Senato che fa? Ma io, a me sembrano proprio delle persone che... Anormali, non sono normali secondo lei? No, sono proprio lontani da dove si trovano. È come se fossero un po' dei pesci fuor d'acqua. Io li vorrei che, insomma, so che salutassero, che invece parlassero con... Ma sono normali secondo lei? Sono normali o no? No, sono assolutamente normali, per carità, ma sono talmente assoggettati a determinati comportamenti vabbè, che non sono liberi. No, ma infatti... Va bene, grazie, senatrice Vicari, grazie. Grazie. A lei, a voi, presto, a tutti. A presto. Grazie. Prenda atto che ormai è tutto finito. La zanzara. Tu sei come una piccola zanzara che le sta... 800 24 00 24. Dove sei? Ma dove sono? Sono nel bagno. Ancora, basta con sto bagno. Ma non c'è più spazio neanche per entrare, perché per una settimana ho bloccato completamente gli scarichi. Vittorio da Fermo, buonasera. Ma Vittorio, in Germania lo fanno, tutti in Germania lo fanno. Ma non è vero, Vittorio da Fermo. Lo fanno, c'è un buzzo di merda pazzesco in Germania, lo fanno. Vittorio da Fermo. Sì, pronto. Dica. Allora io innanzitutto gli faccio i complimenti per l'inno, che per fortuna che Giorgio c'è, molto azzeccato, molto... Vabbè, e risentiamolo su questo inno, dai, rimettetemelo. Sentiamo volentieri. Risentiamolo, va. Il grande Giorgio napoletano è veramente... un grande italiano, presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. Meno male che Giorgio c'è, come dice la canzone. E nel PD, giocando agli indiani, hanno tirato le frecce a Bersani. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. C'è troppa gente che non ha capito e pensa solo al suo partito. Presidente, siamo con te. Meno male che Giorgio c'è. La Bindi sa sempre quello che dice, D'Alema col baffo la benedice. Presidente, siamo con te, meno male che Giorgio c'è. Presidente, siamo con te, meno male che Giorgio c'è. Chi c'era qui, Vittorio, su, che deve dirci? Sì, no, io gli volevo dire solo brevemente, perché ho ascoltato brevemente, prima, sì. E poi non sono riuscito a mettermi in contatto, allora... perché cadeva la linea, che ho sentito un ascoltatore che continuava ancora a dire, nonostante quello che Napolitano aveva rimproverato a tutti di superare queste battaglie personali, si continua ancora, esponenti politici del PD, a dire che non dovrebbe fare il governo con Berlusconi, come se Berlusconi fosse... un cittadino solo e non pensa che dietro c'è 10.000 di elettori italiani. Vabbè, allora... che meritano rispetto. Quindi io personalmente oggi, valutando questo atteggiamento di queste persone, mi costringe a votare Berlusconi la prossima volta. Perché... ma chi? Atteggiamento di chi? Atteggiamento di questi partiti componenti del PD che dicono no, oppure del SEL eccetera, che non dovrebbe fare il governo con Berlusconi. Ho capito, ma SEL che vuole che faccia il governo con Berlusconi? Adesso io, per carità, Mendola non è che proprio sia appassionato di Sinistra Ecologia e Libertà, come è noto, ma lei vuole che Mendola faccia l'accordo con Berlusconi? Superiamo, è normale, no? Questi metodi, perché non siamo... ho capito, superiamoli, dobbiamo... va benissimo, non si può pretendere. Il problema è che era innaturale già l'accordo tra Vendola e il Partito Democratico, cioè, sì, questo è il punto. Sono pienamente d'accordo, però Vendola ha fatto cadere il governo prima di Vendola, ha fatto cadere. Ma non è Vendola che l'ha fatto cadere, cioè, non è che la verità ce l'ha in tasca solo Vendola, dice? Ce l'ha tutti. Allora cerchiamo di trovare una soluzione idonea per questo paese che sta andando alla rovina. Vabbè, Vittorio, grazie. Luigi da Firenze, da Firenze, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io mi sono risolto a telefonare quando ho sentito l'intervento di Flores, no? Perché secondo me, come diceva l'ascoltatore che mi ha preceduto, se non si leva di mezzo queste antipatie tra destra e sinistra, il governo non si farà mai. Ancora qui il problema è Berlusconi e non invece il 35% purtroppo di giovani disoccupati che purtroppo ci sono. Io ho una figlia che si è laureata e è andata a vivere a Londra per trovare lavoro, invece è un anno che non la vedo. E qua ancora si parla di Berlusconi, c'è, non c'è, c'è. Personalmente ho apprezzato molto il discorso di Napolitano, ho apprezzato meno veramente la scelta di Letta, perché secondo me per fare un governo vero potevano puntare sulla scelta di Renzi, che era un ragazzo non contaminato dal Palazzo Romano, pieno di idee, e quindi con Renzi avremo fatto un governo. Con Letta sono convinto che si perderà di nuovo tempo come Bersani, perché la foto è copia carbone di Bersani, quindi non si risolverà niente. Passeranno altri giorni e saremo di nuovo lì a cercare di fare il governo. Vedremo. Sì. Costantino Caserta, buonasera. Sì, io sono invece, buonasera, sono per Flores d'Arcais, sì. Condivido perfettamente, per Savino d'Andria che saluto e che... Oh Savino, dov'è finito Savino? Dov'è finito Savino? Ci chiami? Dove sei Savino? Posso sapere questo? Come mai Savino non interviene quasi mai al programma del signor Barisoni Focus Economia? Forum Economia. Come mai? Ecco, io questo me lo domando, perché ad esempio dopo la bellissima intervista del signor Barisoni al signor Prodi, sarebbe stato molto auspicabile un intervento del signor Savino, Savino, però non dove capisco sei? Perché invece Savino, da noi chiamano questi, Savino, da noi chiamano. Savino, mi manca Savino. Quando mi vuoi chiamare Giuseppe, io sono sempre a tua disposizione. Ho capito, però Savino, mi manca Savino. Cornute che non sono altro, questi sono dei cornuti. Ho capito, però chi... Non è un linguaggio, capito, da Forum Economia. No, non è un linguaggio, diciamo, da... È un linguaggio da noi. Ma neanche da Simone Spezia, volendo. No, vabbè, ho capito, ma insomma... Ma neanche da Alino Milan. Cioè, c'è un problema, se no non un problema. Secondo me dovremmo farci qualche domanda, perché da noi questi chiamano... Sono tutte bocche in aria. Ecco, questo secondo me è un tema da affrontare prossimamente, no? Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene. Ecco. Tu ti immagini, c'è Barisoni, ti voglio bene, Barisoni. Ma no, quello non ce l'ha nemmeno gli ascoltatori. Che Barisoni, c'è? Ti voglio bene, Barisoni. È impossibile, no? Sì, ho capito, però. Fatti delle domande. Siete due bastarde, nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltarvi. Susi, tanto per cominciare. Susi, dove sei? Susi, dove sei? Hai capito poi perché dico Susi, dove sei? Mi manchi terribilmente, Susi della 14. Mi manca anche, come si chiama? Quello della labbra di velluto, come si chiama? Quello dei semafori. Oddio, il nome non me lo sono dimenticato. Eliseo da Roma, mi manca. Dove sei, Eliseo? Chiama, ti prego, chiama. Occhio che stiamo degenerando, eh. Lo so. Costantino. Sì, e poi volevo dire che stasera ho sentito un... Da TG3 ho sentito... Che da? Dal TG3 a fare... Sì, che è successo al TG3? Che il PDL aumenta del 4,9%, il PD diminuisce. E è tutta colpa di Bersani, ottima persona sul piano personale, ma politicamente dovrebbe essere interdetto, perché uno che vince le primarie... Beh, guardi, lo hanno praticamente poi... già interdetto, cioè non è che... appunto, no, ma questa è la cosa grave che fa, è che ha consentito, diciamo, alle senatrici come a Vicari, sì, che ha parlato poco anzi, di poter, diciamo, assurgere agli onori della gloria, ma che queste persone sono state egregiamente definite da Battiato, quelle che sono. Quindi noi, ma no, adesso lei sta dando della troia alla senatrice Vicari, lei si rende conto o no, Costantino? No, e lei si deve vergognare, ma... però. Vergognare se dà della troia alla senatrice Vicari. No, assolutamente, però il Parlamento definito da Battiato, in un certo senso, che ha eletto questo Presidente della Repubblica, sì, che ha tenuto nascosto le intercettazioni, sì, eccetera, eccetera, consente che fra qualche anno, quando si voterà di nuovo, Berlusconi sarà il prossimo presidente della Repubblica. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Questo qua vincerà le elezioni. Ma questo qua è il terrore che avrà la maggioranza. A parte che se vince le elezioni significa che la gente gli ha dati voti, no? Dunque, di che stiamo parlando? Certo, perché abbiamo distrutto tutto quello che c'era. Parenzo, aiutami. Ma Parenzo. Scusa, questo si permette di parlare di Prodi, di cose, di chissà che. Vabbè, Costantino, la devo lasciare. Abbiamo la borsa. Ringrazio. Sì, molti ci scrivono ai Focus Economia e non Forum, lo sappiamo. Ma perché non capite? A dopo. Complimenti per la trasmissione. E il giorno che finisce questa trasmissione io posso pure morire, perché questa è la più grande trasmissione di tutti i tempi. E non vi sto facendo una sviolinata. La Zanzara. Quando la zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy estanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno. Perché questi sono incapaci, li prendono pure dalla boccone, questi sono bocchinari. Ah, mi denunciate, ecco, questo... io ho lasciato nome e cognome, indirizzo di casa, mi denunciate, ma che chi? Sono bocchinari. Ma chi dovrebbe denunciare, scusi Savino? Sono i bocconiani del cazzo, che hanno distrutto l'Italia. Tormento de mi vita. Ma che è un paese questo, ci siamo fatto ridere dalla Merkel e far così. Quei due pezzi di merda, quei due pezzi di merda, non sanno mangiare, non sanno vestire. La Francia si è inventato il profumo perché c'è il divieto di incontro con l'acqua, perché non si lavano. E voglio parlare dell'Italia, ma di che devono parlare dell'Italia? Le corna che hanno, di che devono parlare dell'Italia? Perché qualche pezzo di merda di politico e qualche pure qualche collega vostro è andato all'estero a parlare male dell'Italia. Di che vogliamo parlare? Davide da Torino, buonasera Davide. Pronto, buonasera. Volevo sapere, è ancora aperta l'asta per la maglietta? Sì, è sempre aperta qui, è sempre aperta. Ah no, perché sarebbe per me un'immensa soddisfazione raccogliere la cacca del cane della mia ragazza, che purtroppo è un cagnolino, quindi non ne fa molta. Sì. Quanto siamo di quotazione? No, no, siamo gli oltre 1000, mica vorrà spendere 1000 euro per raccogliere la cacca del cane. No. Mi spiace, va bene lo stesso, grazie. Prego, arrivederci. Marco da Varese, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo parlare dell'incarico a Enrico Letta, che mi sembra un po' una farsa preparata da mesi, soprattutto sapendo che Enrico Letta è il nipote di Gianni Letta e soprattutto fa parte dell'Aspen Institute. Ma che cosa strana. Fa parte dell'Aspen Institute, dove ci sono membri anche come Lucia Annunziata, Giulio Tremonti, quindi... È difficile pensare che non ci sia un accordo premeditato nei un accordo forti. Con chi? Un accordo con i poteri forti, la famosa Bilderberg con trilateral. No, non la trilateral, con chi è? Savino? Cruciani. Ma che stai a fare? Che stai a fare? Io sto all'ospedale perché... Che è successo? Mio figlio sta all'ospedale. Non ho detto niente ieri perché... Stai all'ospedale, con tuo figlio all'ospedale. Tre giorni fa è uscito dal coma. Io non ho detto niente ieri, sto all'ospedale adesso. Se volete vi chiamo fra 5 minuti che arrivo in macchina, mi metto in macchina e vi chiamo. Carico, però, carico, è sempre carico. No, richiamami fra 5 minuti, io sono pronto. Sì, vabbè, d'accordo, mi raccomando, carico, carico. Hai capito, questo c'è il figlio che sta a morire all'ospedale in coma. Come? Il figlio che sta in coma all'ospedale, Savino. Io gli dico carico, mi raccomando, ti richiamo carico, Poveretto, ma Che c'è? Che c'è? Che c'è? Ma è una roba tremenda. Marco da Varese, Marco, allora? Poverino, è terribile. Volevo finire dicendo che il PD si è capito benissimo dal 2011 che era d'accordo con il PDL, soprattutto quando poteva andare alle elezioni e eliminarlo del tutto quando aveva un calo di consenso il PDL. Sì. Lo sa chi l'ha detta oggi questa cosa della trilateral e del Bilderberg? L'hanno detto Borghezio insieme e Ferrero. Il problema è che la gente deve smettere di pensare che ci sia una destra e una sinistra, perché i poteri sono ben oltre questa destra e la sinistra. Sono dentro la BCE, dove ci sono azionisti in maggioranza la Germania e la Francia. Sono nel signoraggio dove si distribuisce. Perché l'Inghilterra allora ha un opt out per non adottare l'euro e però prende i proventi da signoraggio? Basta queste discussioni, non ne posso più, basta, sono inutili. Risolviamo i problemi concreti, ma non è che possiamo tornare indietro. Oggi hanno risolto i problemi concreti non andando in aula PDL e Lega a discutere dei soldi che dovevano andare terremotati. Gli unici che si sono presentati sono stati il 5 Stelle, non so se c'è stato il PD, non lo so. Però gli unici in aula erano quelli. Anch'io sono d'accordo con lei, Marco, che si poteva tranquillamente cominciare a lavorare in Parlamento senza bisogno di aspettare il governo. Sono d'accordo con lei, l'ho detto più volte, per cui. Pasquale da Bari, buonasera Pasquale. Pronto? Dica. Ciao Cruciani. Allora, ascolta, io avevo in mente un intervento, però prima fammi dire qualcosa sulla senatrice Vicari. Innanzitutto quella sigla, meno male che Giorgio Cemmi rievoca qualcosa di terribile, cioè? non me la far ascoltare più perché mi dà perché mi fa schifo. Perché ti io fa schifo? Sono l'elettore del PD, sono l'elettore del PD. Mi sento, e come italiano sono mi sento una vergogna addosso di essere stato governato da quella persona. Perché? Mi dice la Vicari, dice no, ha detto una culona inchiavabile alla Merkel. non è sua sorella la Merkel. Bisogna aver rispetto della gente, bisogna aver rispetto. E dice no, ma è l'ilarità di Berlusconi, l'ilarità la fa a casa sua, con le amiche sue, sì, e con tutto l'arem suo, che non voglio vedere. Perché poi dopo la signora Vicari dice un'altra cosa, sì, dice che suo marito è di Rifondazione. Sì. Questa è la passione politica. Ho capito, marito sembra di Rifondazione, che devo fare io? Era di Rifondazione, adesso vuota PDL. Fa ridere, questa è la passione politica che c'è in questo paese. Io ho votato PD come un terzo, perché il paese è diviso in tre fette. Un terzo. Vabbè, allora. Un terzo che l'ha pensata come me, ha votato PD, sì, per farla finita col berlusconismo. E io non capisco adesso del va bene, ecco, è in urbano trattare Franceschini in quel modo, sono d'accordo con te. Però anche se in urbano è vero anche che il mandato che hanno dato gli elettori. Ma quale mandato? Ma basta con queste cose, col mandato. Ma la politica non è fatta il mandato, è tutto cambiato, è tutto cambiato. Hanno provato a eleggere il presidente della Repubblica, non ce l'hanno fatta e adesso sono pecoronati davanti a Re Giorgio, messi a pecorina davanti a Re Giorgio, non possono fare nulla. Napolitano fin dall'inizio voleva un accordo tra le maggiori forze del paese, l'ha detto chiaramente. Non sono riusciti a fare un governo alternativo, benissimo. Adesso si fa come dico io, ma è talmente lampante, talmente chiaro. Poi ovviamente ci saranno in aula i franchi tiratori, la gente che si tira indietro, eccetera, eccetera. Abbiamo con noi, ma scusa, ma Parenzo, l'hai vista l'altro giorno la manifestazione che c'era davanti all'ambasciata francese contro l'approvazione dei matrimoni gay in Francia? Sì, come no, certo. Sai quale associazione, certo, tra le associazioni chi c'era? Mi pare che c'era non Sacrum Imperium, non Milizia Christi, come no, si Milizia chiama? Christi c'era, Milizia Christi. Ah, Milizia Christi. C'è il portavoce, sì, qual è il problema? Ti fa schifo? Allora io ti saluto e ti ringrazio, ci sentiamo perché? La prossima perché? Volta. Perché? No, ma non dialogo con... Perché non dialogo? Vabbè, dialogo però e prova a non arrabbiare. No, mi fa piacere, anzi, fatto bene invitarlo, così sentiamo lei. È giusto, bisogna invitarlo. Fabrizio tutti, Lastei, bene. Buonasera. Buonasera a voi. Parenzo non vuole parlare con lei, vabbè, che devo fare io? No. Scusi. Non mi stupisce molto. Non la stupisce. Perché è gente violenta. Però, è gente violenta. No, veramente hanno manifestato no, pacificamente. Sono delle gratuite violento affermazioni. Che, slogan. Cioè io prendo come una provocazione tra amici, sì, con cordialità. Violenza è chi effettivamente l'ha compiuta nei confronti dei cattolici francesi, sì, che erano pacificamente a dimostrare, tranquillamente su di terra, sono stati malmenati, ingiustamente arrestati. Ma chi? Malmenati chi? Anche nei confronti di un ministro di Dio, di un sacerdote. Questa è violenza. Violenza è imporre dei modelli che non sono conformi alla uno dignità stato della persona, liberale, senso dell'amore umano. È un, sì, paese liberale quello. Stai calmo, stai calmo. Assolutamente siamo andati, tra l'altro... Signor Lastei, scusi un attimo, posso chiedere una cosa? Prego. Secondo lei che cos'è l'omosessualità? Non ho capito, scusa. L'omosessualità per lei, che è portavoce di Milizia Christi, cos'è? Cos'è l'omosessualità? Oggettivamente, non per me, oggettivamente è un disordine. Un disordine, come sì, sono tanti nella nostra natura umana ferita. C'è una malattia, sono dice lei. Ciascuno di noi. Una malattia. Abbia il coraggio di dirlo. Abbia il coraggio di dirlo. È come la collera, non è una malattia, è un disordine. Cioè, come la collera, che vuol dire? La collera viene quando uno si arrabbia. All'interno di un contesto, eh? Una persona violenta. Si può curare, secondo lei? Parlate uno per volta, la violenza si può curare? Si può curare? Si deve affrontare. Curare è un termine che può anche lasciare il tempo che trova, nel senso etimologico. Cioè colgo, sì, però non faccia le distinzioni così. No, ci sono. Allora, ci sono delle situazioni in cui una accezione, diciamo così, terapeutica può vabbè, no, insomma, dare lei, dei giovamenti. Ma se lei quanti anni ha, signor Lastei? Sono state centinaia. Quanti anni ha? Non lo sapevi, fine di parlare. Centinaia no, di giovani a Milano, voi telefonate da Milano, sì, potete andarli a consultare, c'è il grande Luca De Tolve che può illuminarvi. Grande Luca De Tolve, adesso. Grande, ma chi è grande Luca De Tolve? Perché chi ha il coraggio di guardare se stesso con coerenza è ammirevole. Detto questo, non è che necessariamente, diciamo, questo disordine si possa curare nel, sì, senso medico del termine. Ma è un disordine che va affrontato. Ad, sì, esempio, uno che sia collerico, cosa deve fare? Ma per lei c'è disordine. Può anche affrontarla, sì, sotto un profilo terapeutico. Forse può adattarne, sì, le gioventi. Certamente. Ma se lei vede due gay che si baciano per strada, che fa? Quello che ho fatto in tutte il 90% delle occasioni in cui ho potuto, cioè, mi sono avvicinato fatto? Con estrema discrezione, sì, sì, aspettando che, diciamo, rimanesse una cosa tra noi, sì, con molta veramente delicatezza, pace, sì, Gli ho detto, ragazzi o ragazze, scusate, so che l'argomento è molto complesso, vi lascio uno spunto di riflessione al quale non dovete rispondere, se no la vostra coscienza con calma, ma io non ci sarò, da soli. Vi sembra che questo sia il senso autentico dell'amore umano, della ricerca di complementarità, dell'aspetto umano? E quelli non hanno risposto, scusa, fate affari tuoi, non ci rompe le scatole, no? Qualcuno ha risposto così, molti altri invece ne hanno parlato, qualcun altro si è girato, mi ha dato la mano e mi ha detto, capisco che l'abbiamo disturbata ed offesa e ci dispiace, chiediamo scusa. Ma lei si sente disturbato e offeso quando vede scene del genere, baci tra omosessuali per strada? Sì. Si sente offeso, eh? Sì, come se vedessi delle scene sguagliate tra un uomo e una donna, o se vedessi qualcuno che facesse... Non è vero. Il macho pride, sì, è vero. Quanti anni ha? Io quasi 50, 49. Quando ero ragazzo, cominciò ad essere un militante, quindi... Militante di cosa? Io non ho ancora capito. Vabbè. Militante politico cattolico. Militante politico cattolico, vabbè. Riusciamo a parlare senza, diciamo così, avendo un filo del discorso lineare, penso che giochi a tutti. Sì, vabbè, ho capito, però adesso per carità, si può essere militanti di quello che uno vuole, io non so, non sto qui a giudicare, ognuno può essere... Signore della milizia, volevo dire questo, volevo dirle con grande pacatezza questo, signore amico della milizia, un po' di amico, sono portavoce. Allora, portavoce della milizia, al netto della milizia, viviamo la informo in uno stato liberale in cui se due persone si baciano per strada se ne fottono se lei arriva amabilmente a fare una riflessione, perché se mentre io sto baciando la mia compagna o il mio compagno lei si avvicina, io le dico amico mio, ma che vuoi da me? Cerchi di riflettere e di avere un comportamento più alla dignità della persona. Ma assolutamente no, perché se lei mi interrompe la pomiciata, io francamente uno per volta, altrimenti vi contraddite l'un con l'altro. No, non ci stiamo contraddicendo nella maniera più assoluta. Comunque, lei secondo me è circondato da froci, quello è il punto. Cioè, intorno a lei, a casa sua, si deve rendere conto che è pieno di froci. Le offese gratuite, guardate, come si dice ma perché offese? Ma guardi, io non se la sto offendendo per niente, lei ha sbagliato. Io sono stato nel suo palazzo. È pieno di froci, si arrenda. È pieno. Ma io lo sto insultando. Ho difeso personalmente. Spero che anche voi abbiate un po' di midollo spinale per difendere le persone che vengano ingiustamente aggredite. Quando si tratta di omosessuali e quando si tratta di sacerdoti bastonati dalle forze dell'ordine dello Stato liberale che piace tanto al Signore. Più uno Stato laico o uno Stato laido? Abbiamo il traffico. Stato laido, traffico. La zanzara. S'approcio e me, perché c'è da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio e me, e che ce passo fa? Sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure vogliamo davvero. Siamo qui, Giuseppe da Verona. Buonasera, Giuseppe. Buonasera, signor Cruciani. Volevo dire innanzitutto questo, che è importantissimo, è vitale, secondo me. Lei è una delle persone più irriverenti e deve continuare su questa strada. Giustifico anche la presenza di Parenzo, perché è un perbenista del cazzo ed è giusto, insomma, che questa coppia vada avanti così, insomma, no? Perbenista lo dice a qualcun altro. Signor Parenzo, ma lei non può giustificare sempre tutto e tutto purché sia PD. Non lo può fare, è veramente qualcosa. Ma io non sto giustificando nulla di niente. Lei giustifica sempre tutto, cercate di arrampicarvi sempre sugli specchi in continuazione. Scivolate, fate sempre una grande confusione. Siete veramente assurdi. Siete fatte chi? Giuseppe, un attimo solo, lei è anche contro il divorzio e l'aborto, evidentemente, no? Figurati. Certissimamente sì. Non c'è dubbio. Ma figurati, ma come ti viene in mente di chiedere una cosa simile alla milizia? Scusami. Beh, come chiedere alla milizia? Se in Italia facessero, ma secondo me non lo faranno, le nozze gay, lei che fa? Si impicca? Si incatena davanti al Parlamento? Sono anche contro il suicidio. Cioè si impicca, nel senso si incatena davanti a fare delle manifestazioni pacifiche, composte e ferme, con se lei mi chiede le cose e poi mi interrompe nel vostro costume, io non riesco a parlare, ma non mi stupisce, è da quando ho 17 anni che dura questa storia, ormai ci ho fatto perfettamente il callo, quindi mi diverte quasi, quando dura poco. E no, vado a fare delle manifestazioni. Vado a fare le manifestazioni. È Parenzo che parla, ogni tanto noi parliamo. Ho detto solo la parola alla milizia, non si può dire la milizia? Vabbè, milizia comunque. Cristi, vorrei milizia Cristi, bisogna aggiungere Cristi, il discorso, sì. Perché poi ci sono altre milizie. La milizia, allora, di Cristo. Ritorno. Sì. No, siccome noi, perché peraltro abbiamo generato anche una lista civica, sì, omonima, lista civica milizia Cristi, portiamo, sì, avanti un discorso di cultura. Sì, per fortuna lo zero. Ma la sodomia, cos'è la sodomia? È un abominio. Un abominio, cioè l'atto sessuale tra uomo, tra due uomini, sì, è un abominio. Sì, esattamente. E perché è un abominio? Beh, ma basta chiederlo all'anatomia e non per facili scherni o scherzi. E perché l'anatomia nella sua struttura ed anche nella sua, sì, tutte le sue premesse e conseguenze biologiche parla chiaramente di quella che sia la complementarità necessaria tra, cioè, due persone. Secondo lei non può esserci un rapporto tra due uomini, come dire, no, perché peraltro questo è molto viziato, lo dicono anche le stesse persone che ne hanno viziato? Che ne fanno esperienza o ne hanno fatto esperienza, no, viziato da una cosa ulteriore, quello che stiamo dicendo, di narcisismo, cioè, ah, è un rapporto non esaustivo sotto il profilo proprio affettivo. Ma che ne sa lei? Perché si rincorre sempre quella complementarità che non si può trovare in ciò che o in colui o in colui che modalmente è un Parenzo, intervieni tu, dai, intervieni tu. No, ma cosa vuol dire? Dico, riuscite anche a ascoltare qualche volta? Sì, per ascoltiamo, però non è che possiamo fare la lezione. Qualche volta, non sempre, sì, non dovete, sì, farlo proprio sempre, qualche volta. Sì. Per fortuna il partito della milizia Cristi ha 0,01%. Vivessimo in un paese governato dalla milizia, verrebbe da scappare al più presto. Vabbè, con per anni, fortuna bagagli, non accadrà. Caro Lastei, la ringrazio. Alessandro dalla provincia di Vicenza, buonasera. Alessandro, buonasera, buonasera. Allora? No, niente, volevo solo dire una cosa. Pochi giornali o pochi giornalisti ne hanno parlato, ma sì, il signor Gaspari, mi sembra che sia anche un ex ministro, no? Mi sembra. Ma il DT non, dov'è che potrebbe metterselo? Non lo so, cioè, io non lo so se è possibile. Dove se lo deve mettere che il un ministro, che un ex ministro, sì, si comporta in certe maniere e poi dobbiamo avere il ha detto che rifarebbe il gestaccio ai manifestanti pro Rodotà, riproporrei l'esposizione dell'anulare, il gestaccio che ho fatto nei giorni scorsi perché mi offendevano. Allora guardi che siamo di tante idee, l'Italia spaccata in tre, tutto quello che volete, ma una persona che ha un incarico o che ha avuto un incarico istituzionale e che fa parte del Parlamento deve tenere e per forza deve tenere un certo comportamento. Se fosse stato in un altro stato, in qualsiasi stato, l'avrebbero messo alla gogna. Cioè, questa è la realtà. Qua in Italia siamo tutti pagliacci, siamo tutti quanti pagliacci, e questo discorso se l'avesse fatto in America cosa gli avrebbero fatto? Ma le pare che un deputato in America va in giro a fare appunto, ma è guardi, così, ma è diverso, ma qui c'è, ma qui c'è sangue e merda. Ma va là, ma ritengo che questi cretini dovrebbero rimanere a casa per almeno altri 10 anni. Dice Gasparri ai manifestanti. Ci sentiamo lunedì, anzi no, domani, che lunedì, non so perché penso che sia il fine settimana, perché domani è il 25, forse per questo. Ci sentiamo domani in diretta da Perugia a 18:30. Sembrava una convention sadomaso. Napolitano che frustava e loro che godevano. Siete dei caproni. Sì, ancora, dai. Sì, dai, ancora. Dimmi che sei la nipote di Brezhnev. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Un gatto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.